Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17:07 minuti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Focus Economia dopo la bruttissima giornata di ieri. Quest'oggi i listini in Europa hanno fatto sicuramente meglio, ad eccezione di Milano e di Londra. In questo momento Parigi cede poco più di mezzo punto percentuale, guadagna invece Francoforte più 0,12%, Londra è tra le peggiori, anzi la peggiore in questo momento, cede il 2,5%. E male fa anche Milano. Il MIBT, la inflessione del 2,10%, l'S&P MIB del 2,06%. Aveva aperto molto bene Wall Street, in questo momento il Dow Jones guadagna uno 0,14%, il Nasdaq anche uno 0,14%, lo Standard & Poor's invece è in lieve flessione, poco al di sotto della parità. Di cosa parleremo oggi? Della revisione delle stime da parte dell'OCSE, ma anche da parte dell'Unione Europea. Non ci sono ancora dati ufficiali né dati definitivi, ma sicuramente le stime per quanto riguarda la crescita, sia per l'Eurozona sia per i paesi dell'OCSE, verranno riviste al ribasso, in particolare per l'Italia. Questo è quanto annuncia l'OCSE, la revisione sarà piuttosto pesante. Parleremo del Salone dell'Auto che si è aperto oggi per la stampa, apertura per la stampa a Ginevra. Cercheremo di capire che cosa è successo soprattutto in casa Fiat e poi allargheremo il discorso anche ad altre case automobilistiche. E poi parleremo di moda perché si sta chiudendo tra oggi le ultime, davvero le ultime sfilate, la settimana della moda a Milano, e capiremo come è andata, sicuramente non come lo scorso anno. La crisi ha investito anche questo settore e ha investito anche il settore delle calzature. Cercheremo di capire qualcosa di più. 349-238-6666 per i vostri sms, siamo qui ad aspettarli e a leggerli. E adesso invece partiamo con quelle che sono le notizie in breve di oggi. E partiamo dal petrolio che apre in rialzo, più 3,5% a New York, a $41,55 al barile. Come ogni giorno, puntualmente vi diamo notizia dell'andamento dell'Euribor. Scende il tasso a tre mesi a 1,80, nuovo minimo storico, ieri era 1,81. Citigroup si è detta pronta ad abbassare le rate dei mutui per aiutare le famiglie in difficoltà con i pagamenti. L'agevolazione durerà tre mesi e prevede in media una riduzione della rata a $500 al mese. L'iniziativa di Citigroup, che ricordiamo ha appena ottenuto un nuovo salvataggio di emergenza da parte del governo americano, rientra nel nuovo programma studiato dalla banca per venire incontro a quanti hanno perso il posto di lavoro e risponde alle indicazioni date in materia dal presidente americano Barack Obama. Il TALF, ovvero meglio conosciuto come il programma di sostegno al credito delle famiglie e delle imprese per quanto riguarda gli Stati Uniti, sarà lanciato oggi. Questo è quanto ha affermato la CNBC, precisando che il programma è aperto a tutti, anche agli hedge fund. L'espansione del programma fino a 1.000 miliardi di dollari è una delle mosse previste dal piano per la stabilità finanziaria presentato dal segretario al tesoro statunitense Timothy Geithner. Ha parlato da poco, sta parlando forse ancora, il presidente della Fed, Ben Bernanke. 700 miliardi di dollari per salvare il sistema finanziario potrebbero non bastare, ci potrebbe essere bisogno di ulteriori fondi. Questo è quanto ha detto il presidente della Fed intervenendo al Senato. Secondo Bernanke, stress significativi persistono sui mercati. E secondo il presidente della Fed, gli Stati Uniti dovrebbero assumere misure più aggressive per combattere la crisi, anche a costo di far salire ulteriormente il deficit. proposito del budget presentato dal presidente Barack Obama, secondo Bernanke si tratta di un'agenda ambiziosa, appunto l'ha affermato in Senato, sottolineando però l'esistenza di una considerevole incertezza sull'impatto del piano di stimolo fiscale sull'economia. Restando dall'altra parte dell'oceano, la Banca Centrale del Canada ha tagliato i tassi di interesse di mezzo punto dall'1% allo 0,5%, portandoli al minimo storico. E ricordiamo che in materia di tassi, probabilmente giovedì la Banca Centrale Europea effettuerà un nuovo taglio, probabilmente mezzo punto, lo 0,5, che potrebbe portare il costo del denaro dell'area euro da 2 a 1,5. Già questa settimana la Banca d'Inghilterra potrebbe incominciare a stampare banconote per far ripartire l'economia. Questo è quanto ha affermato il cancelliere dello scacchiere Darling in un'intervista al quotidiano Daily Telegraph. E poco fa è arrivata la conferma: il governo ha dato via libera alla Bank of England per nuove misure espansive, tra cui appunto proprio la possibilità di stampare nuove banconote, anche perché la leva dei tassi di interesse si sta esaurendo. Questo è quanto aveva spiegato sia Darling nel corso dell'intervista, sia poi lo stesso governo. Per quanto riguarda la crisi, secondo la Banca Mondiale il peggio della crisi finanziaria nel mondo è alle spalle e entro la fine dell'anno dovrebbe iniziare la ripresa. Questo è quanto prevede appunto la Banca Mondiale. Però oggi Almunia, il commissario europeo agli affari economici e monetari, ha detto completamente l'opposto. Ha detto: il punto peggiore di questa recessione non è stato ancora raggiunto. E ancora Almunia, lo dicevamo in apertura di programma, ha detto che non si esclude una nuova revisione al ribasso delle stime di crescita dell'Unione Europea. Infatti oggi, ha ribadito il commissario, posso dire che i rischi di un deterioramento della situazione sono più elevati. Il commissario ha giudicato ragionevole, tra l'altro, l'emissione di eurobond da parte di un gruppo di stati membri dell'Unione Europea, anche se ha sottolineato che la decisione spetta solo a loro, quindi è una decisione difficile non tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista politico, perché l'idea di eurobond trova sostenitori ma anche molti oppositori in Europa, tra cui la Germania, che è il maggior contribuente del bilancio dell'Unione. Almunia ha affrontato anche tutto il capitolo dell'Est Europa. La crisi finanziaria sta creando rischi nelle banche dell'Europa centrale, orientale e meridionale e gli asset delle controllate di banche straniere si sono deteriorati. Questo è quanto ha detto a Bruxelles Almunia, il quale ha anche aggiunto che chi deve procedere alla ricapitalizzazione delle banche dell'Est in difficoltà è sicuramente la società madre, cioè le capogruppo di queste banche. Almunia ha poi precisato che nell'improbabile circostanza che i paesi dell'area euro si trovino in difficoltà, sicuramente l'Unione Europea è pronta a intervenire. Questo appunto è quanto ha sottolineato il commissario agli affari economici e monetari. Veniamo in Italia e lasciamo per un momento la crisi, perché questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, ha parlato in merito agli scioperi. Dopo la precettazione ordinaria ieri con il differimento dello sciopero nel trasporto aereo che era stato proclamato per domani, Matteoli ha precisato che nessuno vuole cancellare il diritto di sciopero. Ascoltiamo la margine di un convegno della Will Trasporti sul rilancio del settore aereo, intervistato da Andrea Viali. Non è possibile in un momento economico come questo organizzare uno sciopero, soprattutto nel settore dei trasporti, in un momento in cui stiamo lavorando anche con i sindacati per cercare di trovare le soluzioni, non soltanto nel trasporto aereo ma anche nel trasporto pubblico locale, nel trasporto tout court. Insomma, stiamo lavorando su questo. Paralizzare o cancellare dei voli In un momento come questo io lo trovo completamente sbagliato. Il tavolo che è aperto al Ministero, direi continuamente, ci obbliga a continuare a lavorare. Poi se alla fine non troveremo la sintesi, è chiaro, non nessuno vuole cancellare gli scioperi. Torniamo invece a parlare di crisi, perché nell'incontro fra governo e parti sociali domani il segretario generale della UIL, l'incontro che verrà proprio, avrà proprio come tema quello della crisi, il segretario generale della UIL Luigi Angeletti si aspetta che il governo dica quanti soldi ha speso e quanti ne spenderà il mese prossimo e non parli solo di stanziamenti. Angeletti è stato interpellato ancora una volta da Andrea Viali e ha aggiunto che domani ufficializzerà la propria richiesta di moratoria sui licenziamenti. Sentiamolo. Stiamo sicuramente attraversando una di quelle crisi epocali. Non è allungando le discussioni che si risolvono i problemi. Credo che sia il momento nel quale tutti coloro che devono prendere delle decisioni le prendano e si assumano delle responsabilità. Dall'incontro di domani si aspetta allora a questo punto qualche misura concreta da parte del governo? È ottimista? Quello che voglio sapere dal governo è quanti soldi ha effettivamente speso e quanti ne spenderà il prossimo mese, e non gli stanziamenti, che di cui non me ne può, come si dice dalle mie parti, fregare di meno. Ma è chiaro che bisogna fare delle cose abbastanza coraggiose e innovative. Una di queste è quello di finanziare il mantenimento delle persone nei posti di lavoro, non finanziare la disoccupazione. Sarebbe, secondo me, una cosa molto coerente con questo tipo di crisi fare una sorta di moratoria, per cui almeno per il 2009 non ci sono né recessione di contratti né licenziamenti. Tutto ciò viene finanziato anche dallo Stato. Questo ci consentirà di mantenere il lavoro, le imprese, i lavoratori, sperando che la crisi duri poco. Ancora una volta vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri sms: 349-238-6666. C'è chi ci scrive che le affermazioni della Banca Mondiale e di Almunia, l'uno l'opposto dell'altra, non sono l'unico caso. In questo momento, in questo particolare momento, ci sono molte affermazioni, molti punti di vista che sono l'uno l'opposto dell'altro. Quale è giusto? Chissà, questo non possiamo saperlo, attualmente non possiamo saperlo. Chissà se nei prossimi mesi ci capiremo qualcosa di più. Sicuramente nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane, sarà l'OCSE a rivedere le proprie stime sull'Italia. Oggi è stato presentato il rapporto dell'OCSE Obiettivo Crescita. Noi siamo in collegamento telefonico con Enrico Giovannini, che è il direttore dell'ufficio statistico dell'OCSE, che ringrazio anche perché si trova a Seattle e l'abbiamo svegliato qualche ora fa, l'abbiamo importunato un'ora veramente molto presto per la sua giornata. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, dicevamo, in arrivo un ribasso delle stime per l'Italia. A dir la verità, non solo per l'Italia, ma per molti paesi dell'OCSE. Allora, cominciamo da qui, dottor Giovannini. Che cosa ha influito sulle vostre previsioni? Perché all'inizio pensavate, avevate previsto una ripresa, una parziale ripresa già verso la fine del 2009, invece a questo punto bisogna riparlarne nel 2010. Le nostre stime precedenti erano state fatte nel mese di ottobre, quando si era all'inizio di questa crisi economica, in cui certamente c'erano delle prospettive negative, ed è per questo che le nostre previsioni per il 2009 indicavano una chiara recessione, ma i dati per l'ultimo trimestre del 2009 e queste prime indicazioni per il l'ultimo trimestre del 2008 e sì, i primi mesi del 2009 indicano che il pessimismo domina le scelte degli imprenditori, e quindi l'impatto sulla produzione nel quarto trimestre del 2008 è stato veramente molto molto negativo. Speriamo che sia un sovraaggiustamento, diciamo così, da paura, mettiamola così, piuttosto che un vero e proprio ridefinizione dei piani di produzione. I nostri colleghi del Dipartimento Economico stanno appunto ultimando le loro stime che saranno presentate nel mese di marzo. Gli indicatori congiunturali che noi elaboriamo ogni mese, che anticipano in qualche modo le tendenze a 7-8 mesi, ancora non segnalano nessuna svolta. Dovremo vedere se questi piani di rilancio annunciati da molti governi, compreso quello degli Stati Uniti, avranno un effetto sulle aspettative degli imprenditori e quindi faranno ripartire il ciclo verso la fine del 2009 o nel 2010. Per quanto riguarda l'Italia, viene detto che i numeri saranno probabilmente molto peggiori. Diciamo che quello che si era previsto era una crescita negativa dell'1% nel 2009 e dello 0,8% nel 2010, previsioni di appunto ottobre-novembre scorso. Che cosa sta allargando il divario tra l'Italia e gli altri paesi industrializzati? Come ho detto, bisognerà aspettare appunto le stime ufficiali. Sì, certo. Quello che è abbastanza evidente è che questa, come si temeva all'inizio, sta diventando la prima vera e propria crisi dell'economia globale. Cadute nelle esportazioni dei paesi sviluppati a causa del crollo degli ordini in Cina, in Asia in generale, un po' in tutti i paesi del mondo, ecco, questa caduta è molto più rapida di quella che si era sperimentata nelle recessioni precedenti, che erano più di tipo locale e non appunto globale, e quindi c'è un effetto moltiplicatore che colpisce in particolare le economie più esposte al commercio internazionale. E come sappiamo, l'Italia è certamente un paese in cui il ruolo delle esportazioni gioca moltissimo. Senta, dottor Giovannini, voi però chiedete, diciamo spingete l'Italia avanti con le liberalizzazioni, avanti con le privatizzazioni, a quello che è stato fatto nel 2007 e poi non è stato dato molto seguito, c'è ancora molto da fare. Chiedete liberalizzazioni e privatizzazioni in un momento in cui invece si cerca e si spinge molto sulla presenza dello Stato. Questa può sembrare una contraddizione e certamente dal punto di vista di una persona che deve fare scelte politiche è una contraddizione, bisogna fare delle scelte talvolta anche dolorose, e l'equilibrio tra questo bisogno del soddisfare una domanda di sicurezza nel breve termine però si scontra con dei problemi di lungo termine che purtroppo l'economia italiana continua a presentare. Vorrei solo ricordare che mentre 10 anni fa il livello della produttività in Italia era più o meno simile a quello degli Stati Uniti, in 10 anni il sistema economico italiano ha perso 15 punti di produttività, cioè oggi la produttività in Italia è l'85% di quella media americana. E questo è un problema enorme perché solo con la crescita della produttività si riesce in qualche modo a stimolare una crescita a lungo termine endogena, come diciamo noi, cioè non drogata dalla spesa pubblica, ma soprattutto si riescono ad affrontare quei problemi strutturali di anche redistribuzione delle risorse, pensiamo, sì, alla riforma pensionistica, pensiamo alla necessità di investire in educazione, che richiedono in qualche modo a un paese di accumulare un po' di più, perché se non si riesce ad accumulare, a mettere da parte un po' di investimenti, è chiaro che si perdono posizioni rispetto agli altri paesi. Ecco, il tema della produttività è il tema chiave per il benessere degli italiani nel medio termine. E questo richiede riforme strutturali, soprattutto nel settore dei servizi e un forte investimento nell'educazione. Allora, lei parlava di riforme strutturali, in particolare nel campo dei servizi, e abbiamo letto anche una particolare attenzione al mondo appunto per quanto riguarda la scuola, l'istruzione, in particolare dell'università. Mentre noi parlavamo è uscita proprio un'agenzia a proposito di una parte delle riforme strutturali, se vogliamo, che è quella delle pensioni, un aumento graduale dell'età pensionabile delle donne a partire dal 2010 per arrivare a quota 60 65 anni nel 2018. Questo è quanto potrebbe prevedere la bozza proposta dal governo, che è stata appunto inviata alla Commissione europea per l'esame e che punta ad innalzare l'età pensionabile per le donne nella pubblica amministrazione di un anno per ogni biennio, per poi parificarla così a quella degli uomini. Questo potrebbe essere un primo passo, però dottor Giovannini, in questo momento c'è bisogno o comunque come si possono portare avanti tutti e due gli aspetti, quindi sia procedere alle riforme strutturali, sia, come dire, rassicurare anche attraverso una maggiore presenza dello Stato? La risposta, secondo me, sta nella domanda che lei ha posto, e cioè certamente la politica ha un ruolo, ma non è che la crescita della produttività del sistema economico italiano la si faccia da Roma, la si fa in tutti i posti di lavoro, la si fa in tutte le aziende, sia le grandi che le piccole, la si fa negli uffici pubblici. Come si fa? Si fa con uno sforzo collettivo per cercare di diventare più efficienti, per cercare di aumentare la qualità dei servizi, per esempio pubblici, che vengono forniti ai cittadini. Questo è qualcosa che certamente può essere fatto con delle leve in mano al governo, ma richiede uno sforzo degli individui, dei lavoratori e degli imprenditori insieme, perché è lì che si fa la crescita e la produttività. Per esempio, se si guardano le statistiche degli ultimi 10 anni, si vede che l'Italia ha certamente investito nell'acquisizione di computer e altri strumenti di, come si dice, information technology, cioè tecnologie moderne. Ma questo non si è in qualche modo riflesso in cambiamenti profondi del sistema di produzione. L'esempio che si fa sempre è che invece di avere una macchina da scrivere si usa oggi un computer, ma non si è fatta la reingegnerizzazione dei processi produttivi in molti casi intorno a queste tecnologie. Ecco, questo è qualcosa che si può fare oggi, perché la disponibilità di capitale c'è, ma richiede uno sforzo di inventiva, e sappiamo che l'Italia su questo è molto forte, sia dei lavoratori che degli imprenditori, per essere più efficienti e per sviluppare un altro miracolo italiano, come si diceva negli anni 50 e 60, che in qualche modo possa invertire questo trend. Dottor Giovannini, l'ultima domanda, perché è arrivato un SMS e vorrei che fosse lei a rispondere, anche se era un po' implicita nella sua, nelle sue precedenti affermazioni. In merito di produttività, sono cresciuti gli altri paesi o siamo indietreggiati noi? Purtroppo siamo indietreggiati noi, nel senso che l'Italia è uno dei pochissimi paesi che ha un indicatore in diminuzione assoluta, quindi non è che cresce di meno, ma addirittura diminuisce, ed è quello che si chiama produttività multifattoriale. Io la racconto sempre, è un indicatore di efficienza, quando dico: ma avete mai l'impressione che per fare le stesse cose che facevate 5 anni fa bisogna fare più sforzo? Ecco, se sì, questo è perché questa efficienza è in diminuzione. Questo vuol dire combinare i fattori produttivi in maniera appunto efficiente, vuol dire utilizzare al meglio tecnologie, ma anche basarsi sulle risorse umane che ci sono per essere più inventivi, se volete essere più innovativi, qualcosa che si fa appunto sui posti di lavoro e non a Roma. Questo è quello che molti paesi hanno fatto, e così facendo hanno recuperato efficienza e quindi hanno dato una spinta alla produttività globale, che poi ha consentito, come dicevo prima, di reinvestire a livello nazionale, certo, risorse per assicurare che questa crescita continui nel futuro. Come dire, hanno reso concreto il concetto del fare sistema, il sistema paese, cosa di cui noi parliamo tanto ma che poi evidentemente nella pratica non riusciamo molto a fare. Io ringrazio il dottor Giovannini per essere stato con noi, lo ringrazio anche per il disturbo, per aver partecipato appunto da Seattle in un orario un po' scomodo per lui. Grazie a lui e a buon lavoro. Grazie. E prima di lasciarci per la pausa, volevamo darvi questa notizia, volevamo leggervi questa notizia in merito a quanto ci costa la corruzione, una tassa occulta da 1000 euro l'anno a testa, inclusi i neonati. Questo è il peso economico della corruzione che in Italia arriva a costare tra i 50 e i 60 miliardi l'anno. È quanto emerge dal primo rapporto inviato al Parlamento dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza, istituito lo scorso ottobre presso il Dipartimento della Funzione Pubblica dopo la soppressione dell'Alto Commissario per il contrasto alla corruzione. Le 17.35 minuti, di nuovo in diretta in compagnia di Focus Economia, e allora parliamo di altre stime che sicuramente, quasi sicuramente, verranno riviste al ribasso anche da parte dell'Europa per quanto riguarda l'Eurozona. Siamo in collegamento telefonico con il professor Giacomo Vaciago, docente di politica economica all'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore, che saluto. Benvenuto professore. Buonasera a tutti. Allora, professore, intanto voglio da lei un'opinione su questa, come dire, contraddizione. Da una parte la Banca Mondiale che dice il peggio è alle spalle, e dall'altra parte il commissario Almunia che invece si sbilancia e dice il peggio non è ancora stato raggiunto. Ma diciamo che stanno guardando a due realtà diverse. La crisi inizia in America 2 anni fa. Diventa europea 1 anno fa, quindi asiatica, negli ultimi 3 mesi l'Est Europa, ahimè anche la parte entrata in Europa, e Almunia ha in mente quella, sta peggiorando molto rapidamente. La crisi ha fatto il giro del mondo e quindi adesso colpisce anche i 10 paesi, gli ultimi 8 quanti sono, dell'ex blocco sovietico entrati in Europa, e tutta l'area che va da Milano o da Berlino a Mosca soffre molto, oggi più di 1 anno fa. Quindi hanno ragione tutte e due, insomma, in sostanza, dipende dal punto di vista. No, è che nel frattempo la crisi che nasce finanziaria è diventata economia reale, soffre l'industria, anche nei paesi emergenti, insomma, in un mondo globale è difficile che qualcuno possa dire la cosa non mi riguarda, anche se in realtà, e lo vediamo anche in Italia, sono molto diversi quelli che soffrono da quelli che subiscono meno problemi. I pensionati non hanno il problema di perdere il reddito, gli anziani in generale stanno meglio dei giovani, i precari sono più giovani che vecchi, magari anche lavorano per il settore pubblico, non solo per i servizi privati, perché c'era stato molta esternalizzazione dei servizi anche nel settore pubblico italiano, e quindi ci sono precari che soffrono anche lì. Sì. Senta, professore, a proposito di pensioni, lei ha citato i pensionati, ma io le faccio una domanda sulle pensioni, perché prima l'abbiamo rivolta anche al dottor Giovannini dell'OCSE. È uscita poco fa questa agenzia che parla della bozza che il governo ha inviato alla Commissione europea proprio in merito alle pensioni, un aumento graduale dell'età pensionabile delle donne a partire dal 2010 per arrivare a quota 65 anni nel 2018, quindi un innalzamento di 1 anno per ogni biennio, quindi parificarla poi a quella degli uomini in quanto età. Può essere, come dire, un primo passo verso quelle importanti riforme strutturali di cui ha bisogno questo paese, come dicevamo prima, portare avanti quindi contemporaneamente le riforme, le liberalizzazioni e anche la necessaria presenza dello Stato? Ma direi di sì, anche qui siamo sempre in ritardo. Io sono incredibilmente ottimista, dico meglio tardi che mai, però accidenti, il 2018 è fra un secolo. Sì, è tra un po'. e quindi sarebbe forse stata meglio l'idea di approfittare di una grave crisi per anticipare i tempi della modernità. Noi dobbiamo ancora liberarci di un sistema nel quale il lavoro femminile o era servile o non era accettato. Le domestiche erano donne. Beh, quel mondo è finito da un pezzo. E quindi anche lì l'idea che la donna lavori come l'uomo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, in molti paesi è vero da tempo. Senta, professore, proprio in merito al meglio tardi che mai, per tornare all'Europa, probabilmente anche la Commissione rivedrà le stime di crescita, ovviamente rivedrà al ribasso, anche perché oggi Almuni ha detto possiamo dire che i rischi di un deterioramento della situazione sono oggi più elevati. Appunto, questo meglio tardi che mai finalmente arriva anche a Bruxelles? Ma io direi che oramai c'è un'esagerazione di chi fa stime e previsioni, ma questi organi di governo dovrebbero viceversa fare politiche e non previsioni. L'idea che la Commissione, cioè un organo di governo, mi faccia sapere che le cose vanno male, non è mica pagata per quello. Ce n'è già anche troppi di uffici studi che dicono che le cose vanno male. Quindi io inviterei i governi a occuparsi solo dei rimedi quando ci sono i problemi e non fare da amplificatori del pessimismo che già l'industria e le famiglie hanno in abbondanza. Anche perché poi molto spesso ultimamente queste stime vengono sempre riviste e sempre al ribasso. Professore, l'ultima domanda che le vorrei fare è a proposito dell'emissione dei bond europei, perché Almunia questa mattina ha giudicato ragionevole l'emissione di eurobond, quindi obbligazioni da parte di un gruppo di stati membri dell'Unione, anche se poi ha sottolineato che ovviamente si tratta di una decisione che spetta solo a loro, è una decisione più politica che tecnica, e comunque ricordiamo che era stata formulata questa possibilità dal ministro Tremonti addirittura nella scorsa primavera. Lei che ne pensa di questa appunto possibilità? No, penso che l'Europa è un processo dinamico che o va avanti o va indietro. La crisi odierna può essere l'occasione per fare un altro passo in una direzione anche fiscale di condivisione della macroeconomia, visto che oramai grazie alla moneta unica almeno i 16 dovrebbero credere a ciò che hanno già fatto, cioè avere la stessa sovranità monetaria comune e andare avanti anche sulla politica di bilancio. Tante cose verranno lasciate agli stati nazionali, ma è chiaro che nel momento in cui hai già la moneta devi avere anche pezzi di politica di bilancio in comune, altrimenti il sistema tende sempre a divaricare e a rompersi. Il trattato di Maastricht e, come poi sancito ad Amsterdam, il divieto che i paesi abbiano deficit eccessivi va ovviamente superato nella logica che i debiti ammessi sono quelli comuni. Così succede negli stati federali ovviamente, in America e così via, così deve succedere senza arrivare a uno stato federale, ma come condivisione di responsabilità anche in Europa, almeno nei 16. Io mi accontenterei che chi ha la stessa moneta abbia anche una quota di investimenti finanziata insieme. E quindi è molto importante, il segnale dato sarebbe molto importante, altrimenti rischiamo continuamente di arretrare in Europa. Una battuta su questo, ma lei su questo è fiduciosa alla luce anche di quello che è successo domenica al vertice di Bruxelles, su cui comunque la decisione che non è arrivata era quella sull'Europa dell'Est? No, però attenzione, per quello ho sottolineato tre volte i 16. I 16 sono già maturi per avere una moneta comune e hanno già 10 anni di convivenza, quindi è bene che vadano avanti sulla strada della cooperazione rafforzata a livello di politica di bilancio, finanziare gli investimenti comuni con risorse comuni. E aiutare gli altri è un problema più delicato, coinvolge molte altre dimensioni e quindi chiaramente fare una riunione a 27 per aiutare i deboli, se non sei nemmeno capace tu stesso, i 16, di fare la tua parte appieno, mi sembrava velleitaria la riunione di domenica, mi avrebbe molto stupito pensare al successo di un'azione a favore di Ungheria, Polonia, Romania, quando non siamo nemmeno capaci noi 16 più insieme da più tempo di fare un po' di Eurobond. E infatti forse è quello il problema, che non riusciamo mai ad essere stupiti, o quasi mai stupiti dall'Europa. Bisogna che italiani, francesi e tedeschi, che sono assieme da più tempo, si ricordino le comuni responsabilità. Con gli egoismi di noi vecchi non produciamo niente, e quindi bisognerebbe che Sarkozy, la Merkel e Berlusconi facessero squadra fra loro e poi si tirassero dietro gli altri e alla fine arriverà tutta l'Europa. Un treno senza locomotiva sta fermo, o va indietro. Vedremo. Grazie al professor Giacomo Vaciago per essere intervenuto. A lui buon lavoro e buon pomeriggio. Le 17:47 minuti, adesso andiamo a vedere che cosa è successo sui mercati. Eleonora Micheli, collega di Radiocor, buon pomeriggio, benvenuta. Buon pomeriggio a tutti. Allora, una chiusura anche oggi con il segno meno, anche se non per tutti è stata pesante allo stesso modo, e quindi Parigi ha ceduto poco più di un punto percentuale, Francoforte lo 0,52% non è riuscita a mantenere il segno più nelle ultime battute, Londra meno 2,91%, Piazza Affari, il MIB, l'inflessione del 2,42%, l'S&P MIB del 2,40%, il Dow Jones in questo momento sta cedendo poco più di mezzo punto percentuale, il Nasdaq mezzo punto, lo Standard & Poor's lo 0,87%. Prima di tutto, Eleonora, volevo chiederti se ci sono motivi particolari per cui Londra e Milano sono state le piazze peggiori. Ma guarda, un motivo innanzitutto è determinato dal fatto che a Milano ad esempio è molto forte la presenza di titoli bancari, che sono stati tra quelli che hanno accusato le peggiori performance, e quindi appunto proprio per questo Milano ha registrato un calo molto più evidente rispetto agli altri listini del vecchio continente. Anche a Londra ci sono dei titoli che hanno fatto particolarmente male e hanno trascinato in basso ai minimi da 6 anni praticamente il listino londinese. Invece hanno retto meglio il colpo Parigi, che fino a pochi minuti peraltro dal finale registrava un calo abbastanza contenuto e mezz'ora prima era addirittura positiva. Allora, veniamo più in particolare, più in dettaglio a Milano. Partiamo da Fiat, anche perché oggi si è aperto il Salone dell'Auto di Ginevra. In chiusura il titolo Fiat chiude proprio in piena e totale parità. Esatto, in piena parità, ma d'altra parte nel corso della seduta ha tentato di far bene, sono azioni che sono state ben comprate, quelle di Fiat, nel corso della giornata, e questo nonostante il fatto che le immatricolazioni siano calate del 21,9% a febbraio, come reso noto ieri a borsa chiusa. D'altra parte hanno fatto meglio del mercato, meno 24,4%, ma soprattutto gli analisti hanno puntato l'indice sul fatto che iniziano a dare i primi effetti positivi gli incentivi sulle appunto auto che sono entrati in vigore l'11 febbraio, sì. Ma hanno appunto avuto un impatto positivo il ribasso delle immatricolazioni, altrimenti, sostengono gli esperti, sarebbe stato molto più pronunciato, e quindi questo ha dato un segnale di incoraggiamento anche per la performance che le immatricolazioni potrebbero registrare nei prossimi mesi, ha favorito un po' di acquisti su Fiat che, come ripetono gli analisti, peraltro quotano su prezzi molto limitati, 3,62 euro. Andiamo a vedere qualcuno dei titoli che oggi è riuscito a chiudere bene con il segno più, anche con dei progressi significativi, tra cui anche Prysmian, che guadagna sul finale l'1,75%, ieri era scesa ai minimi storici. Sì, ieri infatti aveva registrato una brutta performance, oggi è rimbalzata, e tra l'altro durante la seduta il rimbalzo era molto più evidente rispetto a quello messo a punto sul finale. C'è molta attesa per quelli che sono i conti di bilancio, ovviamente, che non sono ancora stati resi noti, e soprattutto si può dire che le azioni di Prysmian hanno beneficiato anche del giudizio positivo di Mediobanca, che le ha introdotte nella cosiddetta Italia Italian Blue Chips nella lista delle Italian Blue Chips da tenere in considerazione, al posto di Enel, che invece è uscita. Tra i titoli che sono andati ancora meglio, Lottomatica, miglior titolo del listino, più 4,48%, Mondadori più 3,47%. Sì, anche in questo caso, per quanto riguarda Lottomatica, si tratta senza dubbio di un rimbalzo, visto che aveva fatto molto male nei giorni precedenti. D'altra parte anche Goldman Sachs aveva espresso un giudizio positivo di buy nelle sedute precedenti. Per quanto riguarda invece Mondadori, più 3,47%, le azioni si erano già messe in evidenza ieri per il fatto che gli analisti iniziano a supporre che i conti di bilancio della società editoriale possano essere migliori rispetto a quelli del settore, conti che verranno comunque pubblicati il prossimo 25 marzo. Poi sempre in questo caso c'è un giudizio positivo di Mediobanca che, diciamo, ha riacceso un po' i riflettori sull'azienda. Per quanto riguarda gli altri titoli del comparto, non è andata molto bene oggi, anzi diciamo che è stata una giornata anche in questo caso da dimenticare. Il gruppo editoriale L'Espresso, meno 9,33%, peggior titolo del listino. Seat Pagine Gialle, meno 7,84%. Guarda, L'Espresso ha ampliato assolutamente le perdite nel finale di seduta. Prima era negativa, ma non così tanto. Sono scattate anche una serie di ordini in vendita dopo che i titoli hanno rotto certe soglie tecniche. Comunque, appunto, il mercato continua a temere sull'andamento della raccolta pubblicitaria. Per quanto riguarda Seat, ormai è dal 9 di febbraio che le azioni registrano un ribasso dietro l'altro. 9 febbraio, giorno in cui sono avvenuti due eventi: il primo è che sono state raggruppate le azioni, il secondo appunto è che si è dimesso l'amministratore delegato Luca Maiocchi. Poi di lì a poco è stato presentato il piano industriale, ma evidentemente non ha convinto Piazza Affari, visto che appunto dallo scorso 9 febbraio le azioni hanno perso oltre il 50% del proprio valore. Lo dicevi in apertura del nostro collegamento, Eleonora, particolare attenzione a Piazza Affari. Sui titoli bancari ce ne sono molti nel nostro listino, anche oggi non è stata una buona giornata. Sì, infatti ci sono titoli che hanno fatto particolarmente male, come ad esempio il Banco Popolare, meno 4,77%, ma sul finale anche Intesa, meno 4,9%, la stessa Unicredit, che per alcuni istanti della seduta era stata anche positiva, ha lasciato sul parterre il 2,45%. Ha invece un po' arginato le perdite il Monte dei Paschi, che durante la seduta era peggiore, ha perso l'1,79%. Ovviamente in questo caso gli analisti iniziano a interrogarsi sugli istituti che ricorreranno ai cosiddetti Tremonti Bond e in quale misura. Circolano una serie di ipotesi a Piazza Affari e soprattutto ci si interroga se poi nel corso degli anni gli istituti saranno in grado di restituire, di rimborsare i bond semplicemente attraverso il flusso degli utili, o piuttosto dovranno ricorrere all'aumento di capitale. Ad esempio per Equita Sim potrebbero essere a rischio aumento capitale sia il Banco Popolare, che per questo ha fatto molto male, che la stessa banca di Rocca Salimbene in Monte dei Paschi. Eleonora, vorrei girarti una domanda, spero di non metterti in difficoltà, a proposito di Tiscali, quindi sul listino completo. Oggi il calo è stato del 5,77%, ci rimproverano di non parlare mai di questo titolo. Ma Tiscali ovviamente è da un po' che il titolo registra un andamento, cioè innanzitutto oggi sono andate male tutte le azioni del comparto delle TLC, la stessa Telecom Italia ha registrato un ribasso abbastanza consistente. Le Tiscali comunque registrano un ribasso ormai da metà gennaio, un ribasso dietro l'altro. Ci si interroga sul futuro del gruppo e quindi ovviamente tutte le società che hanno un futuro che è poco chiaro vengono vendute dagli investitori, Tiscali tra queste. Certo, tra tutte quelle che vengono vendute, e poi diciamoci la verità, le vendite piovono spesso su tutti i comparti indistintamente, quelle il cui futuro non è proprio chiarissimo vengono penalizzate ancora di più. Grazie Eleonora Micheli, collega di Radio Coral, anche a lei buon lavoro e buon pomeriggio, grazie per essere stata con noi. Prima di lasciarci per dare la linea al GR, vi ricordo le chiusure per quanto riguarda l'Europa. Europa, Parigi -1,04%, Francoforte -0,52%, Londra in chiusura -3,14%, Milano al MIB l'inflessione del 2,42%, l'S&P MIB del 2,40%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,25,42 sul dollaro. Le 18:07, seconda parte di Focus Economia, e allora partiamo subito con le notizie in breve di questa giornata. Partiamo proprio dai mercati. Non è stato un martedì nero, però anche oggi non è stata una buona giornata sui listini del vecchio continente. Lo Stoxx 600, l'indice che sintetizza l'andamento dei principali listini dell'Europa, cede l'1,5% e si riporta sui livelli del novembre del 1996. In questo momento aggiorniamo anche la situazione per quanto riguarda i listini statunitensi. Il Dow Jones cede uno 0,21%, il Nasdaq lo 0,05%, lo Standard & Poor's lo 0,48%. Il premier britannico Gordon Brown è diventato oggi il primo leader europeo ricevuto alla Casa Bianca dal presidente americano Barack Obama. Il colloquio è stato dedicato soprattutto alla crisi economica mondiale, in vista anche del vertice G20 in programma a Londra nei primi giorni di aprile. Il premier britannico, in calo di popolarità nel suo paese, aveva detto alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti che intendeva discutere con Obama un New Deal globale, il cui impatto sarebbe stato avvertito dai villaggi africani ai centri finanziari di Londra e New York. Oggi negli Stati Uniti ha parlato il presidente della Fed, Ben Bernanke, il quale ha detto i 700 miliardi di dollari per salvare il sistema finanziario potrebbero non bastare, ci potrebbe essere bisogno di ulteriori fondi. E ancora Bernanke ha detto che stress significativi persistono sui mercati, questo è quanto ha dichiarato il presidente della Fed, aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero assumere misure più aggressive per combattere la crisi, anche a costo di far salire il deficit. In merito al budget presentato dal presidente Obama, Bernanke ha detto si tratta di un'agenda ambiziosa, sottolinea però anche l'esistenza di una considerevole incertezza sull'impatto del piano di stimolo fiscale sull'economia. Taglio dei tassi. La Banca Centrale del Canada ha tagliato i tassi di interesse di mezzo punto dall'1% allo 0,5%, portandoli al minimo storico. E in materia di taglio dei tassi, per giovedì è atteso il taglio da parte della Banca Centrale Europea, probabilmente da 0,5 punti, che porterebbe il costo del denaro dell'area euro da 2 a 1,5. La Banca d'Inghilterra invece già questa settimana potrebbe cominciare a stampare banconote per far ripartire l'economia, lo ha dichiarato il cancelliere dello scacchiere Darling in un'intervista rilasciata al quotidiano Daily Telegraph, e poco fa è arrivata la conferma da parte proprio del governo inglese, quindi via libera la Banca d'Inghilterra per stampare nuove banconote, anche perché la leva dei tassi di interesse si sta esaurendo. Veniamo in Italia, la crisi economica si abbatte sulle acciaierie Lucchini di Piombino, ora di proprietà del gruppo russo Severstal. Sono circa 600 i dipendenti dello stabilimento che rischiano di essere tagliati nell'ottica di un ridimensionamento dell'organico dell'azienda in seguito al calo degli ordinativi. La riduzione della produzione comporterà il taglio di 420 lavoratori precari ai quali, una volta scaduti, l'azienda non rinnoverà i contratti. C'è però anche chi assume. Nero Giardini ha intenzione di assumere 150 nuove figure professionali grazie a un fatturato cresciuto del 25% nel 2008. E noi veniamo adesso a quello che è un altro dei temi che affrontiamo più in profondità in questa puntata. Si è aperto oggi il Salone dell'Auto di Ginevra, oggi e domani le giornate dedicate alla stampa, 79esima edizione di questo salone, che è un salone internazionale dell'automobile, apertura dal 5 al 15 marzo per il pubblico. Siamo in collegamento con Ginevra, dove c'è il collega del Sole 24 Ore Andrea Malanna, che saluto e a cui do il benvenuto. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, sono 85 le novità mondiali europee, 250 gli espositori, nonostante la crisi economica e al contrario del Salone di Detroit, tutte le maggiori case automobilistiche hanno confermato la loro presenza. Ben 20 espositori sono in lista d'attesa, questo ci farebbe, come dire, prevedere almeno qualche miglioramento all'orizzonte. Noi con te, Andrea, cominciamo subito a parlare del nostro marchio, dei marchi italiani, di Fiat. Oggi notizie che hanno un po' turbato, hanno un po' scosso tutto l'entourage, a partire proprio dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. Sì, Marchionne è arrivato a Ginevra per i suoi soliti incontri, domani c'è anche la riunione dei costruttori, dell'ACEA, dell'associazione dei costruttori, e ha approfittato della presenza qui per lanciare un allarme. L'allarme è quello sulla diffusione sempre maggiore di aiuti al settore auto in maniera non coordinata. Sappiamo che in Italia sono stati varati degli incentivi alla rottamazione, come del resto in Francia, in Germania e anche in Spagna, ma in altri paesi, e precisamente in Francia e forse in futuro anche in Germania, lo Stato è intervenuto direttamente a sostenere i costruttori con prestiti agevolati, mentre sappiamo che di questi tempi per la Fiat, ma anche per altre aziende, è difficile finanziarsi o rifinanziarsi con le banche a tassi accettabili. Le banche sono molto poco inclini in questo periodo a allargare il cordone della borsa, per cui Marchionne ha detto: noi facciamo il possibile, ma non possiamo certo competere in queste condizioni ad armi pari contro gli altri. Quindi ha invitato nuovamente a una maggiore equilibrio di trattamento. Ora la situazione è ovviamente difficile, nel senso che quello che dovrebbe succedere è un coordinamento a livello europeo, però sappiamo che ieri l'Unione Europea ha di fatto praticamente dato via libera agli aiuti francesi, affermando che non violano le norme sulla concorrenza, cosa di cui Marchionne si è detto molto stupito. È chiaro che in queste condizioni o ci può essere un intervento del governo di Roma che fornisce aiuti alla Fiat e al settore magari di altro tipo, come quelli che per esempio sono stati promessi dal governo tedesco in forma di garanzie su prestiti, sì. Oppure si può intraprendere, Marchionne è sembrato disposto a intraprendere una strada in sede di Unione Europea a Bruxelles per protestare, magari fare causa, però sappiamo tutti che in questi casi sono strade molto più lunghe e dall'esito molto più incerto. Un discorso collegato a quello degli aiuti è anche la sopravvivenza dello stabilimento di Pomigliano. Marchionne ha detto: il nostro obiettivo è quello di mantenere gli stabilimenti, appunto in particolare di Pomigliano, a meno che non ci sia proprio un calo fondamentale della domanda. Sentiamo una breve dichiarazione proprio di Sergio Marchionne, raccolta in questa prima giornata del Salone di Ginevra. Credo che la mossa del governo italiano negli ultimi 60-30 giorni è una cosa da fare, gli impatti si vedono già, il stabilimento di Melfi è ripartito, stiamo aumentando anche la capacità produttiva di Mirafiori, quindi potenzialmente riusciremo a rivedere un mercato che si è normalizzato alla fine del primo trimestre. Questa è un'industria che dovrà trovare un metodo per collaborare in una maniera efficiente, quindi o lo fa adesso o lo farà dopo. Ovviamente Marchionne si riferiva in particolare agli incentivi approvati, come ricordavamo anche nella prima parte del programma, l'11 febbraio, e che in qualche modo hanno già sortito qualche effetto, lo abbiamo visto nei dati sulle immatricolazioni di ieri. Parlavamo di Fiat, ci sono ovviamente, lo abbiamo sentito in tutto questo periodo, quasi tutte le altre case automobilistiche che stanno affrontando molti e grossi problemi, tra questo c'è sicuramente General Motors, in particolare problemi su Opel, necessario un intervento quasi immediato, Andrea. Sì, la notizia di oggi è che il numero due della General Motors, Chris Henderson, che è qua a Ginevra anche lui e approfitterà sicuramente dell'occasione per portare avanti le trattative con il governo tedesco, ha detto che in sostanza la Opel in particolare e la GM europea in generale sta per finire i soldi. Abbiamo ancora detto un'autonomia fino all'inizio del secondo trimestre, cioè diciamo un mese o due, poi finiranno i soldi, quindi o i governi europei intervengono a sostenere le attività europee oppure il rischio concreto è quello del fallimento. Pensiamo che la GM europea ha 50.000 dipendenti diretti, più sostenevano e ricordavano appunto i manager oggi un numero che varia tra i 100 e i 200.000 nell'indotto, sia nella fornitura che nelle concessionarie eccetera, quindi è una massa di 200-300.000 persone che vengono a dipendere da questi aiuti. E quindi si comprende un po' come sia appunto questo dilemma che cui si trova di fronte attualmente l'industria europea, cioè dare gli aiuti per salvare nel breve periodo questi posti di lavoro che sono numerosissimi, oppure lasciare, come sta facendo in questo momento per esempio il governo svedese, che il mercato faccia il suo corso. Il governo svedese ha rifiutato di aiutare la General Motors nel salvataggio della Saab, con il risultato che la Saab rischia seriamente il fallimento e quindi si rischia la perdita di anche di 5.000 posti di lavoro in Svezia, che per un paese piccolo come la Svezia, certo, sono comunque un numero considerevole. Ha un impatto non indifferente. Andrea, visto che oggi il salone si è aperto per la stampa tra oggi e domani, io vorrei chiederti anche qual è stata proprio la tua impressione, la tua sensazione, visto che comunque abbiamo sentito ci sono numerosi marchi che sono in attesa di poter entrare per esporre. Beh certo, diciamo che comunque la situazione è quella di un classico salone. Le novità, come avete ricordato voi, sono numerose, ne cito solo alcune, dalla 500 Cabriolet della Fiat a alcuni modelli molto importanti per le rispettive marche come la Volkswagen Polo o la Renault Scenic, le nuove versioni, ai modelli nuovi delle case giapponesi, a una serie di concept da quello della Ford che prefigura la nuova Focus ad altri. Insomma, le novità sono comunque moltissime. Ovviamente anche qui il dilemma per le case è lanciare un nuovo modello in un mercato disastroso oppure cercare comunque di resistere con i modelli vecchi, rischiando a quel punto però di perdere quote di mercato rispetto ai concorrenti. E ovviamente tutti cercano di barcamenarsi, chi ha i modelli quasi pronti li lancia sul mercato e spera nell'effetto positivo che magari può trasmettersi anche al resto della gamma, riportando la gente nelle concessionarie. Chi non ha modelli particolarmente nuovi, diciamo, che siano vicini al lancio, cerca appunto di fare il possibile, magari certo, di sfruttare gli incentivi come nel caso della Fiat. Ricordiamo che la Fiat, che ha lanciato due modelli importanti di Alfa e Lancia l'anno scorso, quest'anno a parte la 500 Cabriolet non ha grandissimi lanci. Domani, ricordo però volentieri, ce ne sarà uno importante, che è quello del nuovo motore multi-air, su cui Lingotto conta moltissimo per accreditarsi ancora di più come uno delle case di punta nel campo dell'ecologia. Grazie Andrea Malanna, poi tireremo le somme a metà marzo quando il salone si sarà concluso. Grazie a Andrea Malanna in collegamento con noi da Ginevra, a lui buon lavoro, e noi lasciamo le macchine e ci occupiamo di moda perché oggi si conclude la settimana della moda milanese. Lo abbiamo già ricordato, una rassegna sicuramente più difficile rispetto agli anni scorsi, vista la crisi che ovviamente ha colpito anche il settore dell'abbigliamento. Secondo le prime stime, che sono attualmente ancora ufficiose, i compratori sono diminuiti del 20%, i clienti, in questo caso anche nei negozi, del 30%. Il momento, questo momento poco felice, ha colpito però soprattutto l'indotto, con anche i tassisti che per esempio a Milano hanno visto il loro giro d'affari diminuire del 40% rispetto allo scorso anno, e i ristoratori che hanno accusato un meno 25%, e per chi abita a Milano come noi vi possiamo assicurare che il traffico rispetto agli altri anni ci ha detto molto su quanto è calato il giro d'affari e anche le presenze intorno al Milano Moda. Per tracciare un primo bilancio, la nostra Anna Marino ha raggiunto Mario Boselli, che è il presidente della Camera Nazionale della Moda. Non abbiamo una visibilità degli ultimi due mesi in termini di cali di fatturato. L'anno scorso il calo complessivo era stato del 4%, ma il saldo attivo della bilancia commerciale era stato ancora di 17 miliardi di euro. Noi abbiamo l'impressione che questo inizio d'anno il calo sia superiore alla media dell'anno scorso, però siamo anche abbastanza convinti che nel proseguo dell'attività potrebbe verificarsi una ripresa già magari dal secondo trimestre dell'anno e quindi chiudere poi su dati analoghi a quelli dell'anno scorso. Gli affari per l'indotto come sono e soprattutto i compratori quanti sono? Sono calati? Le aziende compratrici, quindi diciamo il grande department store, il grosso cliente straniero è venuto, ma è venuto con una delegazione meno numerosa. Questo quindi spiega perché in città ci fossero taxi più liberi, ristoranti meno affollati, alberghi pure anche, ma questo non vuol dire che ci sia una proporzionale riduzione della cifra d'affari, perché magari una delegazione che era di 8 sono venuti 5, questi 5 hanno lavorato più intensamente del solito, non avranno avuto tempo per fare shopping, avranno lavorato più ore al giorno, ma gli ordini, se volevano passarli, saranno riusciti a passarli. Quindi non si può paragonare il calo delle presenze individuali con una caduta del fatturato che sarebbe invece legata al calo delle presenze come aziende compratrici. Allora i numeri che vanno guardati quali sono? Questi momenti sono dei momenti nei quali si semina e credo che come operazione semina sia andata bene con le 230 collezioni, una 85-90 sfilate. Quello che sarà da vedere è il raccolto, cioè come andrà l'economia nei prossimi mesi, perché i comportamenti dei consumatori dipenderanno in molto dallo stato dei portafogli e degli umori. Le presenze internazionali? Buone, nel senso che abbiamo avuto con una riduzione abbastanza omogenea delle presenze generalizzate. Direi forse una qualche maggior riduzione dagli Stati Uniti d'America. L'impressione è che sia andato bene l'Estremo Oriente. Le aziende come stanno andando? Soffriranno meno i grandi marchi che hanno una visibilità internazionale e una diffusione geografica diversificata, soffre un po' di più il monte della filiera che è il tessile, che è più concorrenziato dal farismo. E parte invece domani, si protrarrà fino al 7 marzo l'appuntamento con MICAM Show Event, il salone dedicato alle calzature di livello alto e medio alto, organizzato da ANCI presso gli spazi di Fiera Milano Ro. Ricordiamo che l'Italia è uno dei maggiori produttori, forse il primo in Europa e comunque uno dei primi al mondo, però le difficoltà economiche si sono riflesse anche su questo comparto. Nel 2008 il numero di calzaturifici attivi sul territorio si è ridotto di quasi 3 punti percentuali, mentre il numero degli addetti è diminuito di oltre 3 punti percentuali. Dati IMS relativi all'utilizzo degli strumenti della cassa integrazione nei settori dell'area pelle mostrano nel 2008 un deciso aumento oltre il 36%. A questo proposito il presidente dell'ANCI Vito Artioli fa precise richieste al microfono sempre della nostra Anna Marino. L'export nei primi 11 mesi del 2008 rispetto ai primi 11 mesi del 2007 è calato da 230,9 milioni a 209,9 milioni. Qual è lo stato di salute e come lo avete segnalato? Lo stato di salute purtroppo stiamo peggio dell'anno scorso, chiaramente, e abbiamo peggiorato negli ultimi 3 mesi, perché diciamo che per i primi 6 mesi su per giù siamo rimasti stabili, poi abbiamo cominciato a perdere un po' di colpi negli altri 3 mesi e negli ultimi 3 mesi c'è stata una vera e propria caduta, non un crollo ma certamente una diminuzione di produzione, di esportazione eccetera. Che cosa ha comportato questa caduta? Questa caduta comporta richiesta di cassa integrazione, naturalmente. Cassa integrazione per coprire, perché la prima cassa integrazione è ordinaria, c'è qualcuno che è già in cassa integrazione straordinaria, sono alcune piccole imprese molto deboli che vanno a fermare. E per noi è grave perché spesso sono delle imprese che sono complementari delle grandi imprese, che danno un aiuto alle grandi imprese, quindi perdiamo un pezzo della filiera. Ecco, che cosa proponete voi per rimediare a questa situazione? per salvare la filiera, perché la filiera non va da pezzi, perché lei sa che la forza del nostro settore sono i distretti con le filiere molto strette e organizzate tra loro, che ci danno un prodotto sicuramente molto globalmente molto molto competitivo. Dobbiamo mantenere questa competitività, anzi rafforzarla, proprio associando sempre di più le imprese tra loro, perché in un'integrazione tecnologica, in un'integrazione produttiva, riescano a ottenere il prodotto migliore, sempre aggiornato anche dal punto di vista moda, sempre aggiornato dal punto di vista tecnologico. Quindi proponiamo che anche le imprese più piccole, le imprese complementari, possano avere la cassa integrazione. Ecco, questo è importante. Non solo, proponiamo che le nostre esportazioni possano avere il credito assicurato, come lo hanno le grandi imprese per la vendita di grossi prodotti che hanno un grosso fatturato, che lei capisce che tante piccole fatture alla fine dell'anno fanno una grande fattura, e non troviamo giusto che le nostre esportazioni non vengano assicurate nel credito come vengono assicurate le imprese che esportano elicotteri o aeroplani, per esempio. Per quanto riguarda il futuro, che cosa vi aspettate? Per quanto riguarda il futuro, noi continueremo sulla nostra linea, che è quella di migliorare sempre di più il prodotto, guardando in avanti, in proiezione, guardando in avanti con la formazione professionale, con la ricerca tecnologica, essendo sempre up to date nella moda, nella distribuzione sempre più organizzata, no? Perché non basta avere il prodotto eccellente, ma bisogna saperlo distribuire bene e bisogna saper essere sempre pronti nel distribuire l'ultima moda. E noi siamo già fuori tempo massimo. A tutti voi che ci ascoltate, una buona serata. Ci risentiamo domani alle 17.